Buonasera a tutte le persone che ci seguono dai canali di Ago Modena Fabbriche Culturali e anche dalle pagine di Città di Modena e Fondazione di Modena. Oggi è il secondo appuntamento della prima stagione di Ago dedicata al tema trasmissione. Dopo la lezione di Jeffrey Schnapp di ieri sera, questa sera il percorso ci porterà in una storia ancora del libro di lunga durata, una storia della biblioteca che risale all'epoca alessandrina e a un contesto pre-codex, cioè prima dell'avvento del libro impaginato secondo la forma del codice. È una storia che ci conduce anche in un grande sogno, un sogno di totalità, di possesso universale del sapere, sogno che oggi ha nel digitale, diciamo così, la sua ultima incarnazione, anche se il termine non è tanto adatto per una cultura dell'immateriale come la nostra. È anche un incontro che ci farà riflettere sul ruolo delle biblioteche come istituzione di conservazione e di ricerca, e non da ultimo come perno di grandi trasferimenti di saperi e di culture, per esempio quella greca nel quadro delle politiche culturali dei Tolomei. Questo è un aspetto molto importante, perché noi sappiamo che la trasmissione, che è oggetto dei nostri incontri, non è solo e forse non è prima di tutto un processo tecnologico, ma è un processo di scambio culturale che avviene nel tempo, mediante la custodia del sapere, ma anche nello spazio, attraverso i contatti tra le culture, la loro ibridazione, ossia secondo dei meccanismi molto complessi di appropriazione, di reinterpretazione e di negoziazione dei canoni. Per fare questo sono molto felice che abbia accettato il nostro invito di tenere un intervento nel nostro programma. Abbiamo appunto invitato Robert Danton. Storico, eccolo, buonasera, buonasera professor Danton, benvenuto, benvenuto di nuovo a Modena dopo qualche anno. Robert Danton è professore emerito dell'Università di Harvard, dove è anche bibliotecario emerito, è uno sicuramente dei principali storici del libro sul piano internazionale, ha condotto molti lavori, molti dei quali pubblicati in italiano, soprattutto dalla casa editrice Adelphi, sulla storia culturale, sociale, materiale del libro e, diciamo così, delle imprese editoriali, in particolare nell'illuminismo e nella Francia illuministica, uno snodo centrale del rapporto tra impresa editoriale e costruzione dell'opinione pubblica e delle culture politiche di riferimento, che è forse la ragione per la quale nel suo percorso di studi è poi arrivato a porsi la questione del rapporto fra digitalizzazione e democratizzazione del sapere ed ha anche promosso la creazione di una biblioteca digitale d'America open access. Io sono davvero felice che sia con noi, gli cedo immediatamente la parola per tenere il suo intervento, la lezione sarà diciamo tradotta con un'interpretazione simultanea dal nostro Maurizio Boni, che saluto e ringrazio. Prego. Bene, sono io invece che vi ringrazio, è veramente un piacere essere con voi e di essere tornati di nuovo, anche se virtualmente, in o con Ago. Assolutamente sì, si fa riferimento questa sera, in questa mia presentazione, alle biblioteche. Lo vorrei mettere in prospettiva questo discorso, sottolineando in modo particolare appunto la biblioteca di Alessandria. E cercherò di far vedere come questa biblioteca ci può fornire, come dire, una sorta di ambizione, ambizione anche moderna, per quanto riguarda quindi quelle che oggi sono le biblioteche universali digitali. In effetti, se guardiamo indietro nel tempo, alla storia appunto delle biblioteche, questa sembra essere perseguire un sogno utopistico, cioè un tentativo di mettere a disposizione di tutta l'umanità tutto il sapere. Però attenzione perché, come ci ricorda Borges la Biblioteca di Babele, questo sogno si può trasformare e può diventare un incubo. Si tratta fondamentalmente di un sovraccarico di informazione, come diciamo oggi, quindi veramente ci possiamo perdere, possiamo sentirci schiacciati appunto. da tutte queste informazioni. Un altro suo racconto, che si chiama Il libro di sabbia, ci ammonisce e ci dice che innanzitutto è una sorta di fantastico libro dei libri, perché conteneva tutti i libri del mondo. E questo è diventato, o si rivelò addirittura insopportabile, insomma, nei confronti del suo proprietario, a tal punto che decise di nasconderlo negli scaffali della Biblioteca Nazionale a Buenos Aires, e sembra che i bibliotecari non l'abbiano ancora trovato, è ciò che mi hanno detto. Quindi, dal poco che noi sappiamo, questo sogno, appunto, utopistico, può diventare un incubo. La storia stessa delle biblioteche diventa in parte anche storia di distruzione e anche storia di devastazione. Però attenzione, perché ciò nonostante, a mio avviso, c'è comunque un collegamento positivo, se pensiamo bene, tra le biblioteche e appunto le utopie, tornando all'inizio degli inizi, nel senso che da quel poco che noi sappiamo, la stessa biblioteca di Alessandria rappresentava, incarnava questo lato, come dire, sia quello splendido ma sia quello oscuro della storia delle biblioteche. E devo dire anche che nella sua versione più popolare, peraltro sono veramente sicuro che la maggior parte delle persone che ci sta guardando e ascoltando sicuramente sa di cosa sto parlando, e beh, questa versione è associata a una visione molto romantica, quindi la più grande biblioteca mai esistita, tutto il sapore e sapere dell'antichità concentrato nello spazio di questo enorme palazzo, e poi, come sappiamo, una fine tragica, quindi l'incendio appiccato niente di meno che da Giulio Cesare. Dunque, Giulio Cesare è stato intrappolato ad Alessandria da forze superiori, per cui Cesare dà fuoco alle proprie navi del porto. È una tattica per respingere un assalto prima ancora che potessero arrivare dei rinforzi per salvarlo, per cui è la cultura ellenica che in quel momento, in quel modo, va in fiamme. Molte infatti delle più grandi opere di filosofia e anche di letteratura andarono in quel momento perdute per sempre, irrimediabilmente, per cui da questa conflagrazione, insomma, non rimane che cenere. Oggi quindi non possiamo neanche ricostruire dove si trovasse, dove fosse ubicato addirittura il sito di quella grande biblioteca. Allora, questa versione però degli eventi è sbagliata, è erronea, però è comunque questo un quadro, se vogliamo, accattivante, nel senso che è stato largamente accettato come verità storica. Considerato infatti come una leggenda, può essere letto come un racconto arricchente, edificante, la cui morale riguarda proprio la storia delle biblioteche e il loro ruolo nel formare il mondo della conoscenza. Dal lato quindi splendido, rappresenta l'aspirazione di riunire tutto il sapere del mondo. Se invece lo guardiamo dal lato oscuro, la sua discussione alimenta, come dire, delle lamentazioni vere e proprie su quella che è la catastrofe culturale. Ad esempio, il luogo comune, e anche qui ne avete di certo sentito parlare, quando si dice il libro è morto, qualcuno dice che gli strumenti elettronici hanno preso il suo posto, l'hanno scalzato, hanno proprio volgarizzato questo atto di leggere di per sé. Oppure, altro punto di vista abbastanza comune, qualcuno dice le biblioteche sono obsolete, non ci va più nessuno. Allora, questi sono dei luoghi comuni che sono assolutamente sbagliati, sono erronei, però al tempo stesso ci rivelano molto, sono rivelatori. Cioè, ad esempio, se facciamo riferimento, come dire, se si potesse mettere insieme una storia, quella ad esempio delle geremiadi culturali, questa storia farebbe emergere il disagio degli intellettuali davanti ai cambiamenti nei mezzi di comunicazione. Infatti, nel secolo scorso, nel 1928, è stato Walter Benjamin che dichiarò, e cito, tutto indica che il libro si sta avvicinando alla propria fine. Quindi pensate, qualcosa che si diceva ormai 100 anni fa, 1928. Poi, nello stesso periodo, è stato invece Ezra Pound, e anche qui cito, le arti letterarie termineranno prima dell'anno 2000. Più di recente è stato Alvin Kernan, uno storico, ha dedicato, pensato, un intero volume proprio alla morte della letteratura. Questo è proprio il titolo del libro. Quindi queste profezie di sventura, che possono essere addirittura identificate molto indietro nel passato, assieme ad altri sintomi, se così posso definirli, di disorientamento, quindi, come si dice oggi, l'eccessivo carico di informazioni, l'overload. Come ha dimostrato la stessa Anne Blair nel XVI secolo. C'è cioè una sorta di feeling generale, quindi ci si dice, bene, tutto questo, come dire, esiste da secoli, cioè il fatto stesso di aver paura di essere appunto scalzati dal testo stampato. Allora, è proprio vero che gli storici trovano spesso nel passato lontano, remoto, degli esempi di fenomeni che al giorno d'oggi sono considerati come senza precedenti, cioè individuare però la continuità invece del cambiamento, questo è uno dei loro trucchi del mestiere. Bisogna infatti dire che c'è un senso di continuità che però è fuori luogo, quindi questo non deve trattenerci dal capire la trasformazione senza uguali, senza pari, attraverso cui è passato, almeno di recente, quello che è in generale l'ambiente dell'informazione. Infatti ci sono voluti praticamente 2 millenni nel mondo occidentale per avanzare dall'invenzione della scrittura, che sappiamo ha avuto luogo circa nel 4000 avanti Cristo, arrivando quindi alla scrittura con i caratteri alfabetici, e sappiamo che questo è qualcosa, non sappiamo esattamente quando, ma in grosso modo la scoperta è stata del 2000 avanti Cristo, almeno nel mondo occidentale. Poi altri 2 millenni e mezzo sono dovuti passare prima dell'avvento della stampa su carta con quelli che definiamo caratteri mobili. Dopodiché la tecnologia di stampa in effetti è cambiata molto poco, addirittura per 3 secoli e mezzo dopo Gutenberg. Ora, di certo, i cinesi, i coreani avevano inventato la carta e la stampa ben prima della loro introduzione, insomma, qui in Occidente, però in Asia, ma anche in Europa, dobbiamo dire che le innovazioni tecnologiche fondamentali della comunicazione appartengono a, lo dico in francese, a une longue durée, misurata cioè in secoli e ancora secoli, fino almeno a un recente passato. Poi dopo questo ritmo del cambiamento ai nostri tempi ci ha chiaramente colpiti, ci ha tramortiti, ad esempio internet, inventato, se così possiamo dire, nel 1974, e poi il World Wide Web del 91, e poi addirittura un'altra svolta dopo l'altra, quindi i motori di ricerca, poi l'ordinamento algoritmico per rilevanza, poi gli smartphone e poi i social, quindi i social network. Quindi se facciamo una prospettiva su tutti questi cambiamenti, ci possiamo chiedere se la Biblioteca d'Alessandria debba essere considerata un punto di svolta. Un punto di svolta nella storia dell'informazione. Infatti, per quel che ha a che fare con la tecnologia, la risposta è no, perché come dire, i possedimenti di quella biblioteca consistevano quasi per intero di rotoli di papiro, e contribuirono poco, forse per nulla, a un cambiamento tecnologico più importante di quel momento, di quell'epoca, ovvero questo passaggio, questo ha avuto luogo nei primi 2 secoli della nostra era volgare, dal volume, quindi al rotolo, quello che veniva letto svolgendolo, al codice, quindi il codex, un libro fatto di fogli piegati e poi rilegati assieme, che si poteva appunto leggere, e beh, giustamente girando le pagine. Sappiamo però che la Biblioteca di Alessandria spicca come se fosse un monumento nella storia della conoscenza, quindi anche se ha incontrato questo finale abbastanza triste, adesso non parlo del fuoco di Cesare, però insomma ha lasciato poche prove, come dicevo prima, della sua esistenza, è stato però un tentativo veramente molto molto ambizioso da parte della dinastia Tolemaica, che era quella che governava l'Egitto, di collezionare, poi anche di mantenere, preservare tutto il sapere umano, per cui fin dall'inizio dei 300 anni circa di regno sull'Egitto, i Tolomei resero questa biblioteca di Alessandria una vera e propria espressione della propria grandezza. E quindi investirono delle risorse enormi nella composizione delle collezioni. Hanno inviato degli agenti a comprare libri su ogni singolo, veramente possibile, argomento, da qualsiasi fonte allora disponibile. Quindi, secondo Galeno, quindi il grande medico greco, i sovrani ordinarono che qualsiasi nave appunto che attraccasse ad Alessandria venisse perquisita cercando appunto libri, e se se ne trovava uno, questo libro veniva spedito alla biblioteca e veniva ricopiato. Dopodiché le copie venivano restituite ai proprietari, e quindi la biblioteca teneva gli originali. Quindi lo stesso Galeno ci dice anche che il terzo re della dinastia tolemaica ha chiesto in prestito i manoscritti originali di Sofocle, di Eschilo, di Euripide, addirittura da Atene, perché gli ateniesi stessi permisero a patto con lo stesso Tolomeo III depositasse un enorme tesoro come caparra per la restituzione. Tolomeo quindi riuscì a mettere le mani su questi libri, fece ricopiare i manoscritti, restituì poi le copie al posto degli originali, dicendo agli ateniesi di tenersi pure il tesoro. Quindi questa ambizione di Tolomei era creare una biblioteca universale, acquistando il testo di qualsiasi libro al mondo, addirittura insomma, in quel momento del mondo occidentale non avevano neanche idea della tradizione parallela della cultura letteraria dell'antica Cina, in cui la combinazione conoscenza e potere sosteneva delle grandi dinastie. Quindi se osserviamo questa prospettiva con il nostro occhio critico, come dire, moderno, possiamo interpretarla, questa politica libraria, come se fosse una forma, oggi la definiremo di soft power, oppure, come ha detto qualche fonte autorevole, un esempio di imperialismo culturale, nel senso che collezionando tutti quanti i libri del mondo, gli stessi Tolomei provarono a affermare il loro dominio sulla civiltà greca classica, cercando quindi un monumento sempiterno alla propria dinastia. Era la loro versione delle piramidi. Dunque, devo ammettere che questa prospettiva in effetti richiede un certo livello di speculazione, perché noi abbiamo poche prove riguardo il funzionamento della biblioteca ad Alessandria. Allora, molto spesso questo è menzionato da dei contemporanei, appunto, ad esempio Plutarco, ma lo stesso Galeno. Sappiamo che alla fine comunque sparì, come dicevo prima, addirittura senza lasciare nessuna traccia della propria esistenza. E peraltro una buona parte, ecco, della ricerca a riguardo concerne proprio il problema della sua estinzione. Quindi probabilmente patì l'incendio appunto appiccato da Giulio Cesare durante la sua breve conquista dell'Egitto fra il 48 e il 47 avanti Cristo, perché arriva ad Alessandria con un piccolo esercito per cercare di risolvere un litigio, una disputa dinastica fra Cleopatra e suo fratello, appunto Tolomeo XIII. Dunque Cesare si trovò però subito bloccato, impelagato con Cleopatra, perché sembrava insomma essere irresistibile, e poi anche però con Tolomeo XIII, perché è stato lui che assediò la città e cominciò a quel tempo a mettere veramente alle strette le forze di Cesare, che si trovavano nel centro città, peraltro vicino alla grande biblioteca. Quindi prima ancora dell'arrivo dei rinforzi, Cesare era in questo momento deciso a fermarlo con una manovra tattica. E questo comportava che cosa? Giustamente l'incendio, come dicevo prima, della flotta romana. Quindi il fuoco, l'incendio ha raggiunto la cosiddetta biblioteca figlia dei Serapeum, più piccola della biblioteca grande, la quale però fu appunto risparmiata. Quindi dopo che l'Egitto fu incorporato nell'elenco delle province dell'impero romano, la biblioteca rimase intatta, però cominciò a ricevere progressivamente sempre meno fondi, e quindi lì cominciò il suo declino. Ora, questa dismissione probabilmente ha avuto luogo nel 280 dopo Cristo. C'è stata una guerra civile che distrusse la parte interna di Alessandria, che si chiamava Brucheion, dove si trovava proprio la biblioteca, per cui alcuni viaggiatori ci dicevano che non era rimasto nulla se non delle rovine già alla fine del IV secolo, ovviamente dopo Cristo. Dunque, noi sappiamo poco di questo patrimonio, ma quello che sappiamo è che il patrimonio derivava fondamentalmente da note scritte da monaci che copiavano i testi classici, questo durante il Medioevo. Ora, questi riferimenti ci fanno capire quanto dall'antichità classica è andato perso. Ora, nel caso ad esempio di Euripide, le testimonianze contemporanee testimoniano che scrisse 92 o forse 95 di queste opere, e probabilmente tutte si trovavano proprio nella biblioteca di Alessandria, però solamente 18, forse 19 sono almeno integralmente sopravvissute, per cui possiamo dire di sì, nel senso che la perdita della biblioteca fu una catastrofe, anche se non è avvenuta questa scomparsa tutto a un tratto con un falò. È però vero che la biblioteca era esistita per 600 anni e quindi aveva già messo a disposizione le proprie collezioni agli studiosi che la visitavano, dominando il mondo appunto della conoscenza, del sapere in tutta l'età ellenistica. Se ci pensiamo è un grande record se lo confrontiamo alle biblioteche moderne, magari eccezione fatta per la biblioteca dell'Università di Oxford, che in questo momento è di un secolo più vecchia di quella alessandrina ed è ancora francamente in gran forma. Quindi sappiamo poco delle sembianze anche dell'organizzazione interna della biblioteca appunto di Alessandria. Infatti sappiamo che sono diverse le fonti che ci dicono che fosse il principale ingrediente di museion, quindi del museo, una sorta di misto tra scuola e istituto di ricerca che si trovava all'interno del cuore della città, vicino al Palazzo Reale, quindi ad Alessandria. Questo nome, appunto, museion, evoca proprio questa dedicazione alle muse, cioè che onorava come un santuario. Peraltro era divisa in stanze, stanze che corrispondevano alla suddivisione per materie. E contenevano tutti questi rotoli che venivano ordinati alfabeticamente sulla base della prima lettera del nome dell'autore. Per cui, se ci pensate, è stato fatto in questo caso un sistema veramente molto, molto accurato, preciso, una sorta di catalogazione, possiamo utilizzare questo termine. Però attenzione, questa non era una biblioteca pubblica, quindi assolutamente non ammetteva i sudditi ordinari del sovrano, quindi la biblioteca, apparato tutto l'intero museo, erano chiamiamolo, istituto di studi avanzati, se mi permettete questo anacronismo, nel senso che questo era solamente riservato a un numero di studiosi residenti, tra 30 e 50, quindi godevano anche di esenzione fiscale, avevano lo stipendio, avevano vitto alloggio gratuiti e pasteggiavano tutti insieme in questa mensa comune. Per cui ogni tanto tenevano anche delle conferenze, facevano delle lezioni oppure moderavano dei convegni, perché il museo aveva anche una missione, una componente pedagogica. Dunque, il bibliotecario capo era uno studioso nominato dal re ed era il tutor degli eredi al trono, però era anche agiva da sacerdote del santuario delle muse, per cui i colonnati, i portici, i corridoi, il giardino costituivano l'ambiente per tenere delle discussioni peripatetiche, cioè nello stile del liceo di Aristotele e anche dell'Accademia di Platone. Dunque, uno studioso residente, Callimaco, creò il primo catalogo dettagliato della letteratura greca, era stato organizzato per generi ed era anche in ordine alfabetico, appunto, sulla base del nome degli autori. Ora, non si sa se questo poi ha determinato l'organizzazione fisica della collezione libraria, non lo sappiamo, ma sicuramente c'era bisogno di un catalogo che potesse integrare le acquisizioni e anche individuare il materiale. È stato poi Galeno che ha attestato che i libri, una volta arrivati, ricevevano delle etichette che ne indicavano l'origine e anche il precedente proprietario. Quindi sembra probabile, verosimile, che il catalogo potesse contenere informazioni che oggi noi chiameremmo i metadati. Ora, questa raccolta, questa collezione era gigantesca, probabilmente conteneva 400.000 rotoli, è una stima, qualcuno ci dice che il totale poteva addirittura raggiungere i 700.000 rotoli, che coprivano per intero tutta la letteratura, ma anche la filosofia, anche la scienza della Grecia classica, assieme a un gran numero appunto di libri stranieri, peraltro tradotti in greco proprio dagli studiosi del museo stesso. Ora, a quanto pare questi studiosi residenti trascorrevano una vita piacevole, era ben finanziata, almeno nel corso dei primi anni della biblioteca, perché in quei momenti i fondi francamente fluivano molto, molto liberamente. Si dice che consumassero anche molto alcol e che tra loro organizzassero giochi e feste. Ora, inevitabilmente hanno suscitato la gelosia di ingegni, come dire, sofistici, non alessandrini, perché uno dei loro critici, appunto, Timone di Fliunte, l'inchiodò a una battuta acida: nel popoloso Egitto e Cito vengono nutriti numerosi topi da biblioteca che dibattono all'infinito nella stia delle muse. Dunque, questa storia è molto familiare, nota ai classicisti, va forse, arriva, va a parare da qualche parte che almeno ci riguarda. Ora, dal punto di vista della storia bibliotecaria, sono due gli aspetti da mettere in rilievo. Aspetto numero uno, la biblioteca di Alessandria rappresenta, a mio avviso, il culmine di questo slittamento dell'antichità da una letteratura che era basata sulla trasmissione orale a una letteratura che si basava invece sullo scritto. Zenotopo, il primo bibliotecario di Alessandria, è stato il primo, lo chiameremo editor, dell'epica di Omero, perché nella collezione appunto di testi li divide in libri o anche in capitoli, li adatta più all'occhio che all'orecchio. E poi, secondo punto, la biblioteca esprimeva l'ambizione di riunire tutta la conoscenza, quindi facendo questo riusciva a controllare, a padroneggiare tutto ciò che si conosceva, tutto lo scibile, quindi questa ambizione è ancora tra noi oggi. Dunque, non ha avuto origine ad Alessandria, in effetti. Bisogna ricordare che nel 1849 gli archeologi scoprirono una collezione di 30.000 tavoletti di argilla, quella con i caratteri cuneiformi, a Ninive, che è nella parte settentrionale dell'Iraq. Queste tavolette erano state assemblate da Surbanipal, un re assiro che governò dal 668 al 627 a.C. All'epoca era ritenuto dagli storici il creatore della prima collezione bibliotecaria, che io definirei sistematica, addirittura la prima, tra virgolette, biblioteca nazionale nel mondo occidentale. Però non era stato il primo, perché in effetti degli scavi più recenti a Uruk, e qui siamo nella parte meridionale dell'Iraq, hanno rinvenuto i documenti scritti più antichi mai trovati al mondo. In questo caso 4.500 tavolette datate a partire da un periodo che va tra il 3.400 e il 3.000 a.C., per cui poco dopo l'invenzione della scrittura. Fondamentalmente erano delle liste, degli elenchi di parole, fondamentalmente dei conti, utilizzati per tenere traccia di oggetti e anche di possedimenti. Erano addirittura accurati, erano stati archiviati, quindi vuol dire che appartenevano a qualcosa che sì, poteva essere considerata come una biblioteca. Per cui entro il 2900 a.C. nella città di Uruk si era sviluppata, sicuramente una città rilevante, la più grande al mondo in quel momento, con 50.000, almeno 50.000 abitanti, quindi produsse quello che per molti è stata la prima grande opera letteraria, che è l'epopea di Gilgamesh. La prima versione risale al 2100 a.C. E così quindi che la storia delle biblioteche risale, possiamo dire allora, a 5.000 anni fa, quindi è congruente, come dire, con la storia della letteratura e anche della scrittura stessa, perché se ci pensiamo, la biblioteca di Alessandria è allora che cosa? È un esemplare che è arrivato tardivo di questa storia, ma sicuramente esprimeva questa antica ambizione di controllare, di padroneggiare il mondo, come? Collezionando tutto il conoscibile sotto forma di scrittura. Siamo ancora lì, nel senso che nel 2004 è stato Google che ha deciso di digitalizzare tutti i libri del mondo, e ha cominciato proprio da noi, con noi ad Harvard, e abbiamo dato a Google accesso alle nostre collezioni. Come sapete, sono le più vaste di tutte le biblioteche universitarie al mondo. Nel momento in cui Google ci ha chiesto di digitalizzare dei libri che erano proprio protetti dal copyright, dal diritto d'autore, abbiamo detto di no, perché non vogliamo infrangere certo questo diritto. Google cosa ha fatto? Ha avanzato la stessa richiesta ad altre università, in Michigan e poi a Stanford, l'Università in California, e loro hanno accettato, per cui immediatamente Google si ritrova a digitalizzare tutto, e quindi va a digitalizzare dei libri coperti da diritti d'autore, quindi altrettanto immediatamente si ritrova querelato per non aver rispettato i diritti d'autore del sindacato degli scrittori, ma anche dell'associazione degli editori americani. Per cui dopo tre anni e mezzo di trattative, di negoziati, le parti raggiungono un accordo. A alla fine arriva questo accordo, però purtroppo questo accordo stesso trasforma quello che in origine era un servizio di ricerca che si chiama appunto Google, la specialità, no, di Google, e questo diventa una biblioteca commerciale. Alla fine, insomma, era questa l'idea, no? Cioè, Google permetteva a chi fa ricerca, a persone come me o come voi, di sapere subito quali libri sono disponibili, dove si trovano, e poi vi danno lo snippet. Lo snippet è un piccolo estratto del testo. Quindi questo è veramente un servizio eccezionale, se ci pensiamo bene, ad aiutare le persone a ubicare i centri di conoscenza. Quindi capite che questa mossa ha cambiato questo servizio e lo ha trasformato in un tipo di biblioteca che in questo momento però obbliga a noi, noi bibliotecari, che in passato appunto abbiamo reso disponibili questi libri a Google, pensate, ci tocca adesso ricomprarci i nostri libri in forma digitale al prezzo che, guarda caso, definisce Google, che potrebbe addirittura sfuggirci dal controllo. Questo vuol dire che Google è andata a creare un vero e proprio monopolio, un monopolio di un altro tipo, un monopolio della conoscenza, ma sotto forma di versioni digitali. È successo poi che il 22 marzo del 2011 il Tribunale Federale di New York ha dichiarato che questo accordo era o costituiva un monopolio che limitava il commercio illegalmente. Dopodiché questa decisione, come dire, fu la morte di Google Book Search. Ora possiamo certo comprare libri su Google, ma Google non è riuscito a creare, meglio ancora, questa biblioteca digitale veramente gigantesca. Però proprio come la biblioteca di Alessandria, questo è stato un esempio, un'ispirazione se volete, perché ancora prima di essere dichiarato illegale, la questione aveva sollevato una domanda, e cioè: Era veramente impossibile creare una biblioteca non commerciale, mirante al bene pubblico e collegando tutto il patrimonio digitalizzato di tutte le principali biblioteche degli Stati Uniti e tutto questo come servizio pubblico gratuitamente? Beh, è successo che il 1 ottobre del 2010 un gruppo di leader, di dirigenti che rappresentavano fondazioni, biblioteche, ma anche degli istituti informatici, allora questo gruppo si incontra ad Harvard, quindi abbiamo discusso la possibilità di mettere in pratica lo stesso principio proprio nel mondo delle biblioteche, però dell'era digitale, quella attuale. Quindi siamo subito stati d'accordo su un fatto, cioè che era possibile creare ciò che abbiamo definito una biblioteca pubblica digitale, la Digital Public Library, che la chiamiamo appunto con la sigla DPLA, e ASTA per America. Ci siamo messi al lavoro, abbiamo progettato tutta la dorsale tecnica, l'infrastruttura tecnica, una rete di biblioteche quindi che potessero partecipare, ovviamente serviva un centro amministrativo. Ebbene, è stato il 18 aprile 2013 che abbiamo lanciato appunto la biblioteca DPLA. Le sue raccolte, le sue collezioni contengono in questo momento 35 milioni di libri e anche di altri oggetti, provengono da 4.300 diverse istituzioni che sono distribuite in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, e in questo momento sono risorse utilizzabili gratuitamente da lettori di tutto il mondo, tranne una nazione, la Corea del Nord. Dunque, esistono anche dei progetti simili e ce ne sono un po' dappertutto di questi progetti che cercano appunto di riunire risorse, di collaborare, di cooperare in modo tale che libri, ma anche altri oggetti, faccio riferimento ad immagini, a video, anche dei sistemi di comunicazione digitale, appunto rendere appunto tutto ciò disponibile e gratuitamente a diversi tipi di pubblico. Allora, mi prendo il tempo di citare solo quattro di questi esempi. Uno è giustamente Alessandria, quindi è proprio la Biblioteca Alessandrina. Questo è un eccellente centro culturale, è stato completato nel 2002, ha una biblioteca che contiene 1 milione di libri a stampa, con dei collegamenti al Internet Archive, che è basato a San Francisco. Dunque, è iniziata come progetto per realizzare una biblioteca appunto per l'Università di Alessandria, dopodiché ha ottenuto il sostegno del governo locale, cioè egiziano, ma anche dell'UNESCO. Quindi l'UNESCO l'ha sponsorizzata come se fosse una reincarnazione moderna della biblioteca antica e poi anche della sua mission, cioè di contenere tutto il sapere umano. Purtroppo però non ha questa biblioteca tutte le risorse per realizzare questi obiettivi, quindi raccoglie opere solo in arabo, in francese e in inglese. E chi la critica? Beh, dice che è un progetto usato solo per far sembrare progressista il governo egiziano, il quale però non finanzia, quindi non finanzia a sufficienza il progetto. La seconda è la Hathi Trust, lo spelling è H-A-T-H-I, vuol dire elefante in hindu. Dunque, è un repository, quindi un deposito digitale in Michigan, contiene materiale che proviene da più di 60 diverse biblioteche che fanno ricerca. Questo centro garantisce l'accesso gratuito a 5 milioni e 300 mila libri di utilizzo pubblico, di dominio pubblico. Questa Hathi Trust è iniziato come un tentativo collettivo di risolvere il problema di conservare le opere digitali, poi forse, come sapete, è una cosa abbastanza particolare e difficile, perché insomma sapete che nel linguaggio digitale l'uno e lo zero, o gli uni e gli zeri, possono veramente creare mille problemi, quindi per noi poi è difficile risolvere i problemi generati appunto dai sistemi binari, cioè zeri e uni. E quindi lo sforzo è stato fatto per riunire tutti quanti questi libri. Tutto questo, vedete, ha un enorme potenziale, perché almeno tenta di diffondere l'utilizzo e la lettura dei libri. Terzo esempio si chiama Internet Archive. Allora, è una biblioteca gigantesca per il lending, cioè per il prestito. È stata creata da Brewster Kahle. È uno scienziato informatico straordinario del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ha guadagnato una fortuna perché ha creato società digitali, poi però si è ritirato e si è dedicato all'open access, quindi al libero accesso. La sua Wayback Machine, come la chiama lui, ha veramente frugato in tutto internet per salvare, pensate, qualcosa come 10 milioni di pagine web. E ha anche trovato e scogitato questo modo per rendere anche disponibile gratis e online dei libri che invece sono coperti da diritto d'autore. Quindi cosa fa? Compra dei libri fisicamente, oppure ne incoraggia la donazione, li digitalizza tutti, dopodiché cosa fa? Rende disponibile la versione digitale, una copia alla volta ovviamente, così come si faceva nei servizi prestiti della biblioteca pubblica. La quarta si chiama Europeana, è una rete finanziata dall'Unione Europea. Questa europeana collega collezioni digitali di biblioteche di diversi paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Dunque, la struttura è veramente molto molto pesante, sembra un po' un pachiderma. E devo dire che l'Unione Europea non garantisce un sostegno adeguato, però ha un grande potenziale. Infatti la sua infrastruttura tecnica è veramente compatibile con quella della nostra Digital Public Library in America, la DPLA citata prima. Quindi tutti questi sforzi, tutte queste imprese devono sormontare delle difficoltà che sono enormi, soprattutto nel tentativo di risolvere problemi di conservazione, per superare anche dei limiti, delle restrizioni che hanno a che fare col copyright, cioè col diritto d'autore, e che rendono gran parte dei libri pubblicati a partire dal 1923 inaccessibile, quindi ormai sono di dominio pubblico da un secolo. Però è vero che qualche passo in avanti lo stiamo facendo progressi, per cui nel giro di 10 anni credo che avremo una biblioteca digitale mondiale ad accesso gratuito, e quindi speriamo che possa comprendere fondamentalmente quasi tutti i libri esistenti. Dunque, devo confessare in questo momento che sono passato da un argomento che riguarda il passato, quindi implica magari delle congetture che sono solo a livello indiziale, a delle vere e proprie predizioni sul futuro. Quindi queste potrebbero sembrare decisamente utopistiche. Per cui sono convinto che bisogna fare attenzione a questi moniti di Borges sulle utopie. Però mi piacerebbe chiudere in questo modo, concludere così, ovvero: noi abbiamo questa possibilità di realizzare quello che era un sogno impossibile ad Alessandria più di 2000 anni fa. E questo è un sogno che noi dovremmo far diventare realtà. Grazie mille. Bene, grazie molto al professor Danton per questo appunto racconto di lunghissima durata che sta tra l'indizio filologico e la previsione. Se possibile, se qualcuno fosse interessato, si possono porre domande al professor Danton usando la sezione commenti della pagina Facebook di Ago Modena Fabbriche Culturali. In attesa di eventuali quesiti, posso forse porre io una domanda al professore di carattere magari tecnico, cioè quali sono le tecnologie più adatte per interoperare i patrimoni bibliotecari digitali, per arrivare a questa biblioteca mondiale, cosmopolitica mi viene da dire, che lui ha indicato come una possibilità, mi sembra, nell'arco del prossimo decennio. Certo, allora questo termine è interoperabilità, a mio avviso è fondamentale. Allora, io chiaramente non sono un esperto di tecnologia, per cui è chiaro che non faccio coding, quindi non scrivo codici informatici, e quindi ecco, non sono un insider, ecco, non ho la conoscenza diretta dal business, dal settore. È però vero che c'è una sorta di versione, come dire, di interoperabilità che rende accessibili i libri. Si tratta fondamentalmente di qualcosa di tecnologicamente meraviglioso. Si chiama SUP-E, è stata sviluppata alla Public Library a New York, è un nome di un codice tra i tanti, questo SUP-E. Dunque, con questo codice, in questo momento, è possibile creare dei libri elettronici e mettere a disposizione ovunque in modalità molto semplice. Semplicemente si possono veramente trovare gli indirizzi e quindi collegarsi con migliaia e migliaia di biblioteche pubbliche, e noi appunto utilizziamo questa tecnologia, appunto SUP-E, che noi chiamiamo anche SIMPLY-E. Ora, se mi chiedete di descrivere il coding, quindi la tecnica di codifica e tutta la dorsale che c'è dietro, la deluderei perché non ci riuscirei, però sono uno dei trustees della Biblioteca Pubblica di New York, e quindi è un sistema e un codice che vi invito a scoprire. Grazie molte, grazie molte. A questo punto, non essendoci domande, naturalmente la lezione sarà poi ascoltabile anche nell'archivio che Ago Modena Fabbriche Culturali inizia da questa prima stagione a costruire sul suo canale YouTube. Io credo che possiamo salutarci, ringraziare nuovamente il professor Danton per essere stato con noi. Ci auguriamo di riaverlo anche presto a Modena di persona. Vorrà anche dire che questa terribile emergenza sanitaria sarà passata. Io ringrazio tutte le persone che sono state collegate, do appuntamento a domani sera sempre alle ore 18 con la lezione di Maurizio Ferraris, che diciamo farà il punto su alcune categorie ontologiche fondamentali tra il materiale, il virtuale, il reale, l'immaginario. E ringrazio di nuovo sia il professor Danton che Maurizio Boni per la sua impeccabile traduzione, e auguro a tutti e a tutte una buona serata. Arrivederci.